questa città non dorme, allora siamo in due. Per non farti scappare, chiusi la porta e consegnai la chiave a te. Adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza. È il modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il contatto e il tuo conforto. Ah, che fare con me è qualcosa che ha a che fare con me. Se questa città confonde, allora siete in due. Farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il coraggio e il tuo conforto. Ah, che fare con me è qualcosa che ha a che fare con me. D'estate, oh, Dio che ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, respiri soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio, quel conforto che ho a che fare con te. Quel conforto che ha a che fare con te. Pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e tanto tanto troppo troppo troppo troppo amore.